C'è chi ha inventato la banca dell'anidride carbonica ottenuta dalla fermentazione alcolica del vino, chi invece uno strumento che stima la fertilità del suolo, chi ha progettato il rivestimento nanotecnologico che rilancia la pentola in rame nel mercato. Sono solo alcuni dei progetti del Nord-Est Technology Transfer, un'iniziativa organizzata nell'ambito del Salone Europeo per la Ricerca e l'Innovazione Scientifica Save the Food di Trieste, ideata dalla Fondazione COA di Altavilla Vicentina e dal MIB School of Management di Trieste. Attorno ad un tavolo, imprenditori e ricercatori affinché parlino lo stesso linguaggio e individuino assieme possibilità di business secondo un modello anglosassone. E attorno ai loro progetti, presentati nel corso dell'iniziativa, l'interesse c'è stato, segno che ricerca universitaria e impresa parlano spesso la stessa lingua. Sentiamo Luigi Bregant, giovane ricercatore triestino, che ha ideato un sistema per prevedere i guasti dei macchinari industriali. C'è già stato interesse da parte di qualche azienda italiana o europea o mondiale verso il tuo progetto? Sì, sia nazionali che estere hanno detto che è una cosa interessante e che merita essere perseguita. Quindi. Dove pensi finirà il tuo progetto? Spero che resti da me, non, vorrei continuare a portare avanti io questa idea con uno spin-off e un'impresa sana che faccia queste cose. Italiana? Italiana. Creare insomma un'innovazione ready to use, pronta per essere utilizzata in tutti i settori. Su questo fronte, hanno ricordato gli stessi imprenditori presenti all'incontro, si sono fatti passi da gigante negli ultimi 15 anni. La ricerca applicata non è più un tabù, anche se vi è ancora molta strada da fare. L'Italia è ben lontana dalle vette raggiunte da altri paesi come Regno Unito e Germania, dove università e ricerca per l'impresa sono integrati in maniera efficace ed immediata. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.